Questa mappa nasce da un progetto messo insieme da giornalisti provenienti dalla Romania, dalla Germania e dalla Gran Bretagna e dall'Italia ovviamente, e ci siamo messi assieme per uno di questi grant di giornalismo investigativo cross-border del European Journalism Center, che ha ritenuto quest'idea valida. E il punto qual è? Il punto da cui siamo nati è quello sostanzialmente dei lavoratori migranti. I lavoratori migranti stanno principalmente nei settori quelli definiti essenziali, quindi nelle fabbriche, nelle catene di trasformazione alimentare, nei macelli. E l'idea è partita in particolare dai, diciamo, colleghi rumeni, perché i rumeni sono una grossa parte dei lavoratori stranieri nei macelli in Germania e in Inghilterra. In Italia non è così, in realtà c'è una diversificazione tra le nazionalità che lavorano nei macelli, ma anche qui sono prevalentemente stranieri. Partendo da quest'idea ci siamo chiesti se ci fossero dei dati, se ci fossero dei report. In realtà sono molto pochi, e quindi uno dei nostri colleghi, che è un grafico che fa questo tipo di visualizzazioni, ci ha aiutato a mettere insieme quello che sono le notizie che abbiamo raccolto molto semplicemente da internet e che sono soprattutto pubblicate nelle, almeno in Italia, sono soprattutto pubblicate nelle testate locali. Perché in effetti noi non abbiamo mai fatto un discorso complessivo su quello che succedeva nei luoghi di lavoro. Anche in questo caso noi siamo partiti dai macelli, perché sono stati dei casi, come dire, clamorosi, con centinaia di infetti soprattutto in Germania e sappiamo anche negli Stati Uniti, però non sono gli unici posti di lavoro. Parlando con tanti sindacalisti, sia i macelli ma anche le aziende agricole, quindi tutti quei posti di lavoro che poi hanno contribuito a farci stare a casa e a farci mangiare nel periodo del lockdown, quello più duro, e dove il contributo maggiore è quello dei lavoratori stranieri, migranti, che si muovono spesso anche per lavori stagionali, quindi con rischio doppio, che è anche quello del viaggio. Questo è un po' quello da cui siamo partiti. Vorremmo che il lavoro e che questa mappa continuasse a crescere, perché abbiamo fatto anche, diciamo, i nostri reportage nel mentre, quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. Al momento sulla mappa sono segnalati circa 145 focolai che hanno coinvolto circa 12.000 persone che si sono infettate. Come si può, come dire, contribuire allo sviluppo di questa mappa? Molto semplicemente scrivendo all'indirizzo che trovate sul sito, che è covid19.euromoves.eu, e segnalando il luogo del focolaio, il posto di lavoro del focolaio, sia geografico che l'azienda, il numero di infetti, oppure, per diciamo fare prima, mandate un link all'articolo che ne parla. Nella mappa visivamente proprio si vedono dei pallini che corrispondono a dei focolai con dimensioni anche diverse, immagino a seconda di quanto siano grossi questi focolai. Esatto, no? Esatto. Ma poi si possono fare anche altre analisi, ad esempio parlando dei macelli tedeschi che sono qui al nord, si vede benissimo come sono pallini abbastanza grossi tra la Germania e l'Olanda. Perché? Perché ci sono tantissimi, ad esempio rumeni o comunque lavoratori stranieri che vivono in Germania, sono i cosiddetti transfrontalieri, vivono in Germania perché costa meno, perché ci sono meno controlli, e poi attraversano il confine e vanno a lavorare in alcuni dei più grandi macelli olandesi come la Vion Food Group. Ovviamente questo tipo di spostamento crea la circolazione del virus. Un'altra cosa da notare, che diranno spessissimo Confindustria, comunque i rappresentanti dei datori di lavoro, è che non è nel posto di lavoro che ci si contagia, ma sono nelle abitazioni, perché spesso appunto i lavoratori stranieri vivono in appartamenti con tantissimi lavoratori, quindi non c'è possibilità di mantenere la distanza sociale se non anche in vere e proprie situazioni molto precarie di alloggio, e questo però, come dire, fa parte del pacchetto della produzione, quindi è assolutamente da respingere questo tipo di giustificazione da parte dei datori di lavoro, secondo noi, e insomma cerchiamo di farlo capire anche nelle nostre inchieste, che poi vedrete sotto sempre nel sito. Mi raccomando, aiutateci e mandateci segnalazioni.